Abbiamo droga tipo Sinaloa, in bocca una canna grossa come un sigaro. Dimmi se ti servono sì o no. Te ne do 16 e non parlo di una strofa. Crack musica, puoi beccarlo in ogni piazza di Roma. Crack in cucina, senti puzza vino al piano di sotto. Spruzza un deodorante spray, sbuffo fumo come un mostro. Sbuffo fumo come un drago, 7 vite come un gatto. Triplo 7 nella scena, rap siamo come il Ciapo. Triplo 7 nella scena, rap siamo come il Ciapo. Intendo siamo come Pablo, intendo siamo come il Papa. Attento a quello che dici in giro, abbiamo orecchie per strada. Abbiamo gli occhi per strada, chi bracco con le mani in pasta. Tipo pizza stendi l'impasto, bicarbonato e cubetti di ghiaccio. Visto un sacco di cose fatte altrettanto. Si apre il mare, l'acqua agitata. Se la dark sta arrivando, apro pacchetti col coltello. Te lo passo, ti assaggia. Griselda Blanco, fumavo erba da nonna sul divano. Ora fumiamo 30 grammi in ogni posto in cui andiamo. E sanno che siamo la dark, riconoscono la banda. L'hai presa da mio fratello, riconosco la faccia. Tony il Ciapo, Tony Sosa, Tony Boss sulla mia collana, parla messicano, balla la salsa. Buste d'erba ma non vesto rasta. Tasca incinta, lei dice che è incinta. Gioielli danzano, soldi e droga come un punto fisso. La tua ragazza vuole me, fottuto punto fisso. Scappo la sigaro in bocca come un cubano. Squamata rosa come un boliviano. Ma siamo a Roma, fiocchi di coca. Tony il Ciapo per il prezzo. Parla con i miei soci, non ti sento. DPG triplo 7 Roma centro. Nel gioco come i cazzo di messicani. Droga che diventa carta. So come farli triplicarli, spenderli e poi farli tornare nelle tasche dei Balmain. Siamo alieni per questi mortali. Nella scena rap siamo il Ciapo fuori dal Tiplano. Dici se ti servono sì o no. Siamo cani, amore, sperro, scontatti con il cartello. E sai di cosa si tratta, sai che cosa trattiamo. Soldi in mano, crack in provetta. Brucio soldi come Pablo, non accendo il riscaldamento. Sai che mangio piccante, sto alzando i miei giallapegno. Fotto solo gringo hermano, scollane pendenti. No pendego nella scena rap Robert Rodriguez, Danny Trejo. Abbiamo droga tipo Sinaloa, in bocca una canna grossa come un sigaro. Dimmi se ti servono sì o no. Te ne do 16 e non parlo di una strofa. Crack musica, puoi beccarlo in ogni piazza di Roma. Crack in cucina, senti puzza vino al piano di sotto. Spruzza un deodorante spray, sbuffo fumo come un mostro. Sbuffo fumo come un drago, 7 vite come un gatto. Triplo 7 nella scena, rap siamo come il Ciapo.